il mistico è colui che ha una conoscenza diretta di Dio, delle realtà spirituali o realtà ultima, accessibili tramite l'intuizione, un fatto soggettivo, al di fuori della percezione ordinaria dei sensi e del ragionamento. Nel buddismo Zen, per esempio, si distinguono generalmente due forme di conoscenza, una è prajna e l'altra virjana. Prajna è l'intera conoscenza o la conoscenza trascendentale, mentre virjana è la nostra conoscenza relativa, nella quale si distingue soggetto e oggetto. Secondo il mistico, l'uomo è schiavo della logica e delle parole, il mondo materiale o la realtà sono illusioni, tutto è mera apparenza e deve essere considerato come tale senza attribuirgli alcun valore. E, scontato che il mistico e il misticismo siano soprattutto presenti in Oriente. Ma anche in Occidente ci sono più mistici di quanto non sembra, e per questo è più che opportuno prendere in considerazione la personalità e la filosofia. È vero che molte persone negano di essere mistiche, ma dato che hanno valore più i fatti che le parole, chi vive razionalmente attribuisce ai primi un'importanza determinante. Dato che per il mistico esiste una modalità di esperienza e conoscenza distinta dall'ordinario. Dato che secondo la sua visione il mondo materiale o la realtà sono illusioni, occorre fare una riflessione. Se un'illusione è definita come una percezione fuorviante della verità, stabilendo che qualcosa è un'illusione, il mistico intende dire che l'illusione rappresenta erroneamente ciò che è reale. Però, se la realtà oggettiva non esistesse come contrasto all'illusione, non ci sarebbe modo di sapere qualcosa di quell'illusione. In altre parole, per sapere che sto sognando, devo avere un'idea di che cosa voglia dire stare sveglio. Solo così potrò mettere a confronto i due stati. Allo stesso modo posso sapere cosa sia un'illusione, perché ho idea di cosa voglia dire essere sveglio. Se tutto fosse davvero una illusione non lo saprei mai. Perciò l'illusione assoluta, come sostiene il mistico, è impossibile. Quindi, l'unica conclusione logica è che è illusorio credere che la realtà sia un abbaglio. Se tutto è illusione lo è per lo scettico, ma non significa che la sua idea corrisponda alla realtà stessa. Generalmente il mistico ribatte che la logica non ha valore. Ma gli sarà molto difficile indurre una persona razionale a condividere la sua opinione, perché offre argomentazioni che si basano su di un principio di logica che lui stesso rifiuta. Il ragionamento del mistico rende ogni cosa senza senso, e la vita un'assurdità piena di contraddizioni. Per onestà di pensiero dobbiamo sempre ammettere di poter sbagliare nelle nostre valutazioni. Perciò un confronto con il mistico o con la filosofia del misticismo deve essere il più possibile obiettivo. Che tutto sia irreale potrebbe anche essere vero, però ci sono fatti che dimostrano che il mistico fa dei puri ragionamenti filosofici per amor di discussione e non per cercare la verità. Verità della quale lui stesso nega l'esistenza. Se il mistico credesse a ciò che dice, ossia che tutto è soggettivo, perché quando in una casa passa da un vano ad un altro, entra per la porta e non attraversando il muro? Se la realtà oggettiva non esiste, perché quando i mistici attraversano una strada molto trafficata, guardano da un lato e poi dall'altro? La strada e il traffico non sono solo illusione? Se un camion o un macchina sono vicini perché affrettano il passo per non essere investiti, quando la realtà non esiste. Se il mistico vivesse in maniera coerente al suo pensiero o alle sue convinzioni, sarebbe forse ancora in vita. Se il mondo non è reale, se gioia e dolore sono solo impressioni, perché allora quando si siede su di uno spillo, e questo lo punge, non sopporta l'avvertire di ciò che lui ritiene illusorio? Queste forti contraddizioni portano alla conclusione che il mistico culla un pensiero per cercare di produrre in lui e negli altri uno stato di pace e di armonia, fittizi e inesistenti nella sua filosofia, ma assolutamente reali e presenti nel cristianesimo. Perché sostenere che solo il cristianesimo è la risposta alla ricerca morale e pratica della pace e dell'armonia? Quale particolarità offre il cristianesimo che non possano dare né il mistico né il misticismo? Innanzitutto il cristianesimo offre la realtà delle cose. La fede dei cristiani non si perde in speculazioni filosofiche o nel discorrere tanto per mettere insieme delle parole, Giobbe 16.4, ma presenta dei fatti realmente avvenuti ai quali si può credere oppure no. Inoltre, i primi cristiani avevano delle certezze quale risultato di una vita vissuta e di ragionamenti in armonia con la realtà stessa. Una prova di questo la troviamo nella prima lettera di Giovanni, dove l'autore smantella la filosofia gnostica, che, come il misticismo, ha la pretesa di conoscere Dio mediante una modalità di esperienza e conoscenza distinta dall'ordinario. Proprio perché la verità è conoscibile, proprio perché non tutto è realtà illusoria, proprio perché non tutto è soggettivo e relativo, l'Apostolo Giovanni usa nella sua lettera almeno 14 volte i verbi sapere o conoscere, verbi che esprimono il concetto di giungere a sapere o conoscere come cosa provata, non per mezzo della percezione, ma perché la cosa è evidente di per sé stessa. Preso atto che il mistico è la testimonianza più eloquente del fallimento della negazione dei principi del ragionamento logico, prendiamo in esame alcune affermazioni dell'Apostolo Giovanni in merito alle certezze che produce la fede in Dio tramite Gesù Cristo, l'unico Signore. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuiate a credere nel nome del Figlio di Dio. 5.13. È indiscutibile che il tesoro o il bene più grande che possa esistere sia possedere la vita eterna. Tutte le religioni. Per i musulmani il premio futuro è composto anche di belle donne, mentre per i testimoni della torre di guardia una vita terrena di pace e beatitudine. Per il mistico, ovviamente, un futuro di gioia e di pace non esiste, poiché se è illusione la realtà presente, non è il caso di parlare di realtà future. La questione va data persa. Solo il cristianesimo offre una vita futura gioiosa ed eterna, ma come posso sapere di avere un'esistenza eternamente felice? Non potrei, come sostiene lo scettico, illudermi in merito. Certo che posso illudermi. E per questo è molto importante essere sicuri di possedere la vita eterna. Come posso allora essere sicuro di possedere realmente ciò che affermo? La risposta è una sola. La vita eterna è una persona. E questa persona è Cristo Gesù. Così, secondo la Scrittura, chi possiede Cristo Gesù ha la vita eterna. Chi non lo possiede non ha la vita. Ecco perché Giovanni si preoccupa di avvertire i suoi lettori che possono essere certi di possedere vita eterna per il fatto che hanno riposto la loro fede in Cristo Gesù. I cristiani sono coloro che non solo hanno la vita eterna, ma sanno e sono certi di averla. E questo non perché si basano su quello che fanno, ma perché in loro vi è la natura divina che li rende partecipi dell'eternità gioiosa. Nonostante questo, il cristiano può ancora correre il pericolo di illudersi e Giovanni accerta le convinzioni dei credenti con la seguente dichiarazione. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. 1 Giovanni 2:3. Dato che il possesso della vita eterna non è visibile ed è il risultato di un'esperienza altrettanto impercettibile, Giovanni vuole rassicurare maggiormente i credenti, dichiarando loro che l'assoluta certezza di conoscere Dio non si ottiene da un'esperienza estatica, ma per mezzo di una vita conformata al volere di Dio. Dichiarare di avere avuto un incontro con l'assoluto e poi camminare in modo contrario al carattere di Dio stesso, per Giovanni è una prova o una certezza che si è bugiardi. 2.4. Le certezze non sono solo a favore, ma anche a sfavore. Il comportamento non solo rivela la nostra sincerità, ma anche quella degli altri. In effetti, come possiamo conoscere con sicurezza che chi si dichiara in comunione con Dio corrisponde alla verità? Non può anche lui illudersi? Sì, dato che può illudersi, Giovanni dichiara: «Se voi sapete che egli è giusto, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da lui». 2.29. Con i suoi ragionamenti, l'uomo è in grado di pervertire la verità e lo dimostra il fatto che quello che per noi oggi è normale, come l'omosessualità, secoli fa era motivo di aperta condanna. Così, è facile dichiararsi cristiani senza esserlo concretamente, perciò l'unica prova vera e certa per verificare la coerenza delle proprie affermazioni è praticare ciò che è giusto, cioè osservare i comandamenti di Dio. Mi chiedo, Com'è possibile dichiararsi cristiani quando ci si rivolge in preghiera ad altri che non sono Cristo Gesù? Non è forse stato questo il peccato principale del popolo di Israele, del quale oggi vediamo ancora le conseguenze? Potrà Dio perdonare una nazione definita cristiana come quella italiana, quando i credenti invocano degli uomini e donne come mediatori tra loro e Dio? Proprio perché è molto difficile distinguere chi veramente siano i figli di Dio, l'Apostolo Giovanni mette in evidenza un'altra verifica per rendere certi coloro che dichiarano di aver fatto una esperienza spirituale con Cristo. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. 3:14. Noi sappiamo, cioè, non è una realtà illusoria, non è soggettivo e relativo, ma noi siamo certi, siamo giunti a sapere, o conosciamo come cosa provata, o è cosa evidente di per sé stessa. Noi sappiamo, dicevo, di essere figli di Dio perché amiamo i figli di Dio. A molti sfugge il valore di questo assunto, ma Giovanni sta dicendo che non è possibile amare coloro che sono nati di nuovo se non si è nati di nuovo a propria volta, come non è possibile per un serpente amare un porcospino. Solo un porcospino ama un porcospino. Se non fosse così, Giovanni non avrebbe addotto come prova certa l'amore per i figli di Dio. Se qualcuno, compreso il mistico, volesse negare ciò che la scrittura afferma, provi con tutte le sue forze a desiderare di stare in compagnia con coloro che hanno realizzato la nuova nascita. Non solo, provi a godere della compagnia dei figli di Dio al punto da cercarli con tutto il suo cuore. Quello che mi attira della parola di Dio non sono le grandi argomentazioni speculative o filosofiche in essa contenute, ma la praticità della vita, come il mistico. Per passare in casa da un vano ad un altro, attraversa la porta, anche se per lui tutto è illusorio. Così il cristiano cammina per i sentieri di Cristo. Ma con una differenza, per lui la volontà di Cristo è la vera realtà. E, talmente realtà, che il mistico e chiunque non è nato di nuovo non può camminare nelle vie di Cristo. La sfida è aperta. Novembre 2006. Ellero.